Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Possiamo farle quasi fotocopie le puntate ormai, perché anche oggi la borsa sta prendendo una sberla. Non so più da che parte iniziare. 17:07, l'orario l'abbiamo detto, il tempo continua a essere come quello di ieri, anche le borse. A dire il vero, oggi in giornata c'era stato un tentativo timido di recupero, niente di indimenticabile, però c'era stato. Poi è successo un po' di tutto, nel senso che questa volta, a differenza di martedì, le notizie sono un po' più fattuali, diciamo così. Perché? Perché di nuovo le agenzie di rating, domani vi anticipo che il programma sarà condotto da Simone Spezia, ma vi sarà una intervista anche al responsabile di Moody's, una delle tre agenzie che danno i voti ai debiti dei paesi, oltre che ai debiti dei soggetti privati, che dice: attenzione, noi ci prepariamo a declassare alcuni debiti di alcuni paesi. Nel caso specifico, Moody's ha detto c'è una perplessità forte sul Portogallo, c'è un rischio che la crisi finanziaria greca contagi le banche di diversi paesi europei, tra cui il Portogallo, la Spagna e anche la Gran Bretagna e anche l'Italia. È un report appunto di Moody's, citato da France Press, domani ne parleranno diretti interessati. Ha dovuto rispondere a un certo momento la Banca d'Italia, dicendo: attenzione, il sistema bancario italiano è robusto, il deficit della parte corrente è basso, il risparmio in Italia è molto alto, il debito complessivo delle famiglie, se si somma i risparmi delle famiglie con il debito del paese, cioè mettendo assieme risparmio privato con debito pubblico, siamo a un livello più basso rispetto ad altri paesi, il debito netto nei confronti dell'estero è basso. Insomma, l'Italia, lo dice la Banca d'Italia, lo dice Mario Draghi, l'Italia è un caso diverso da quello di altri paesi. Questo non l'ha detto in maniera ufficiale il governatore, trapelato, diciamo, da varie indiscrezioni di fonti Banca d'Italia. Ancora, Moody's ha in realtà criticato poi l'andamento dei conti in Grecia, l'andamento dei conti in Portogallo, ma insomma la notizia peggiore è stata questa. La cosa strana è che questa notizia è stata diffusa alle 11:30 e ancora i mercati però si muovevano abbastanza tranquilli. Sempre questa mattina la Spagna ha collocato un'obbligazione importante, titoli di Stato, i BOT spagnoli, BTP spagnoli a 5 anni per 2 miliardi e 350 milioni di euro, rendimento al 3,5%, ha dovuto pagare un rendimento un bel po' più alto, ossia il più alto del 26%. No, il mio sospiro è perché adesso la borsa perde il 5%, insomma sta perdendo Milano il 5%. La cosa che mi lascia molto perplesso è che Francoforte perde lo 0,90, Parigi perde il 2,12, Londra l'1,11. Insomma, Milano sta perdendo a livello greco. Adesso cerchiamo di capire perché. E anche la Spagna, vediamo di collegarci magari anche subito con chi sta seguendo i mercati finanziari, perché insomma il 5 sta precipitando e obiettivamente ci mancano informazioni più precise. Perdeva il 3 20 minuti fa, il 2% un'ora fa. Abbiate pietà per tutta la mia sorpresa, ma insomma in questo momento è anche difficile commentare questi mercati. Partiamo con la notizia in breve, vediamo anche di recuperare alcuni collegamenti, perché sì, Barisoni, oggi è veramente uno schifo il mercato, lo so, lo guardiamo anche noi, però che ci possiamo fare? Andiamo avanti, le notizie in breve, qualche buon dato sulla disoccupazione, la Banca Centrale Europea che lascia i tassi invariati, le dichiarazioni di Jean-Claude Trichet, e nel frattempo cerchiamo di capire cosa succede nello specifico a Piazza Affari. Ripeto, Francoforte perde solo l'1, Londra perde solo l'1, Parigi perde un po' di più, il 2,1%, però Piazza Affari perde il 5,4%. Le notizie in breve, 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, vediamo i titoli nel frattempo. Chi sta prendendo di più? Mamma mia, Intesa San Paolo meno 11,4%, Unicredito meno 10,1%, Mediobanca meno 8,2%, Popolare di Milano meno 8,2%, Ubibanca meno 7,7%. Questa è una batosta che sta arrivando a tutte le banche italiane. Meno 7,4 Monte dei Paschi, meno 7,2 il Banco Popolare. Vabbè, insomma, stanno attaccando l'Italia. Generali meno 6,5%, Fondiaria meno 6, Impregilo meno 5,80, Unipol meno 5,20, Atlantia meno 4, Exor meno 4%, Telecom meno 7%. Ancora per quello che riguarda il mercato, Enel perde il 3, vabbè, qui siamo su un livello un po' più normale, Fiat perde il 2,70, Saipem il 2,5, Italcementi il 2,3, CIR meno 2,2, Ansaldo meno 2, Terna meno 1,90, Snam meno 1,80, Mediolanum meno 3,80, Buzzunice meno 3,90, Exor meno 4, Eni adesso perde il 4,4 però... Unipol meno 5,88, insomma, però praticamente, insomma, se lasciamo stare gli altri titoli con una pesantezza nei petroliferi, quello che fa impressione oggettivamente, io non ricordo cali del genere nemmeno durante il fallimento di Lehman Brothers, quello che fa impressione sono le grandi banche italiane, meno 11,3 Intesa, non lo ricordo a memoria, meno 10% Unicredito, meno 8,60 Mediobanca, meno 8% UBI, meno 7,80 Popolare di Milano, meno 7,80 il Banco Popolare, meno 7,60 Monte dei Paschi, meno 6,60 le Generali, meno 6% Fondiaria, meno 5,90 in Unipol. Un disastro. Allora, euro su dollaro è sceso ulteriormente oggi, da 1,29 è sceso 1,28, adesso è sceso 1,27, mo sta andando a 1,26. L'euro sul dollaro è ai livelli più bassi dall'aprile del 2009. E quindi non è ai livelli più bassi da quando è scoppiata la crisi di Lehman, ma sicuramente a livelli molto bassi. Il petrolio sta risentendo comunque di queste tensioni mi sembra quasi un eufemismo. Il petrolio è a $78,6 il barile e l'euro appunto è sceso sotto quota 1,27 per la prima volta dal marzo 2009. Insomma, Radio Cori sulle 24 ore. Andrea Fontana, per favore, buonasera Andrea. Buonasera. Ribaltiamo la scaletta oggi. Che cosa sta capitando? Sta capitando che dopo le indicazioni arrivate da Moody's questa mattina, che diceva un rischio di contagio da parte della Grecia agli altri paesi d'Europa, e diceva di una relativa relativa tenuta delle banche italiane, il mercato non ci ha creduto e insomma sul mercato chi specula arriva anche a temere un downgrade sulle banche italiane da parte delle agenzie di rating. Ricordiamo in particolare che Moody's ha già preannunciato il secondo capitolo dello studio emesso oggi sulla situazione del credito europeo per i prossimi giorni, probabilmente all'inizio della prossima settimana, in particolare incentrato sull'esposizione delle maggiori banche europee nei quattro paesi dell'Europa meridionale, quindi Grecia, Portogallo, Spagna e Italia, e come tu ricordavi insomma il mercato ne ha preso spunto per speculare fortemente sul sistema Italia, sul sistema delle banche in particolare, ma anche sul sistema ma anche sulle società fortemente esposte dal punto di vista debitorio come Telecom Italia, che nonostante una trimestrale positiva perde oltre il 7%. Sì, però scusa, io non ce l'ho con te Andrea, non è che sia tu a vendere le banche, ma adesso Intesa sta perdendo quasi il 13%, Unicredito l'11%, questi sono crolli, non sono speculazioni, Mediobanca il 10%, ora o c'è qualcosa che ci è sfuggito o se no, voglio dire, abbiamo sempre detto le banche italiane sono pochissime investite in strumenti derivati, sono pochissime investite anche in Grecia, cioè rispetto alle banche tedesche noi abbiamo 5 miliardi e mezzo di esposizione, le banche tedesche ne hanno 40, le banche francesi 80 di miliardi, allora non si capisce perché Francoforte perda l'1,1 con le banche che vanno, cioè Milano sta prendendo il 6% adesso, e adesso vado a prendere il raffronto, ma me lo daranno in regia, quanto perse Milano nei giorni del crack di Lehman Brothers, quindi stiamo parlando di ottobre 2008, non ricordo, forse arrivò al 7, ecco, roba da 11 settembre. Adesso, io capisco che Moody's abbia fatto l'ennesimo comunicato così, da speculazione, ma la Banca d'Italia ha risposto, non è successo niente, cos'è, un nuovo gioco? Innanzitutto non non si sta scommettendo contro le banche italiane per quanto riguarda l'esposizione all'estero, ma per quanto riguarda la loro stato, il loro stato di salute stesso e lo stato di salute della, dell'economia, dell'economia italiana. Quindi diciamo così, se, rispetto alla questione della, della speculazione a cui tu accennavi, non è tanto guardando che cosa sono esposte verso gli altri paesi, ma si va pesantemente sulla situazione dell'economia italiana, per questo che perdono appunto anche società che non hanno esposizione verso questi altri paesi, anzi che fanno tutt'altro, tutt'altro business, ma caratterizzate da forte debito, come può essere Telecom Italia, può essere Atlantia in particolare. Poi l'andamento è stato talmente repentino nel pomeriggio, anche dopo le parole del presidente della Fed di St. Louis, Bullard, che ha detto preoccupati per il debito di Italia, Spagna e Portogallo, che diciamo così, se sugli altri paesi si è già scontato il rischio di downgrade e l'auto outlook negativo da parte delle agenzie di rating, sull'Italia non è stato scontato e mi sembra che si possa dire che verrà scontato in gran parte oggi, insomma. Dice un ascoltatore, insomma, Barisoni, non ti agitare. Ma io non mi sto agitando, resto semplicemente basito perché non capisco. Insomma, questa mattina Corrado Passera, dopo aver letto la dichiarazione di Moody's, il numero uno di Banca Intesa, ha detto: ma insomma l'Italia sta a gestire i conti pubblici come nessun altro paese europeo e ha un sistema bancario migliore di altri paesi. Ha anche aperto su un'ipotesi di aiuto da parte delle banche italiane alla al piano di aiuti verso, verso la Grecia. Adesso vi facciamo ascoltare mentre cerchiamo di capire, anche adesso sto riguardando una cosa, Moody's quando ha parlato questa mattina nel report, nell'analisi del sistema bancario europeo, ha detto che l'Italia assieme a Gran Bretagna, Spagna e Portogallo è uno dei paesi in cui si rischia il contagio greco, ma ha anche aggiunto: l'Italia è uno dei paesi dove il sistema bancario è stato sino ad oggi relativamente robusto, per cui c'era anche un mezzo complimento. Le pressioni dei mercati sui certo non potrà essere immune se la pressione dei mercati sui rating sovrani, cioè sui debiti dei vari paesi, continuerà a aumentare. Ma sempre Moody's diceva: il sistema bancario italiano ha accusato meno di altri lo scoppio della bolla immobiliare, perché da noi il mattone obiettivamente non era così in bolla e non è esploso, e ancora ha avuto meno danni dal settore dei derivati. Comunque ci risentiamo, Andrea, dopo la chiusura di borsa. 349-238-6666 per i vostri sms. Torniamo con le altre notizie in breve. Allora, andiamo avanti perché oggi c'è stato il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea che si è riunito a Lisbona, non a caso, invece che a Francoforte, e si è analizzati soprattutto il rischio di un contagio della Grecia verso gli altri paesi. Mi sembra che questo rischio sia una certezza ormai, vabbè. E poi un'ipotesi che comincia a prendere quota a Francoforte si svegliassero anche qua, il rischio è già in atto, e poi anche l'ipotesi di un acquisto delle obbligazioni governative dei paesi presi di mira dalla speculazione finanziaria, cioè la BCE sta ipotizzando di andare a comprare lei i BOT, i BTP, il debito di paesi presi di mira, e cioè la Grecia, e cioè la Spagna e il Portogallo, e oggi mi sembra di poter dire anche l'Italia. Tassi al minimo storico all'1%, tassi adeguati, dice Trichet. Non abbiamo il numero uno della Banca Centrale Europea, non abbiamo mai discusso l'opzione di un default, di un fallimento di uno dei paesi dell'euro. Bene il programma di Lisbona e il programma complessivo dell'aggiustamento dei conti. Ancora la Banca Centrale Europea ha deciso di accetterà tutti i titoli di Stato greci come garanzia dei suoi prestiti, quindi un segnale a favore della Grecia. Sulle garanzie alla Grecia, che è una notizia importante, si è deciso a larga maggioranza. Non è escluso in futuro, ha detto la Banca Centrale Europea, un acquisto di titoli di Stato di altri un acquisto diretto di titoli di Stato europei da parte della Banca Centrale Europea anche per altri paesi. E poi ascoltiamo Jean-Claude Trichet sulla Grecia. il tipo di intervento della Banca Centrale Europea e anche sul Portogallo. Prima il commento sulla Grecia. We did not discuss at all anything like default or Non abbiamo assolutamente preso in considerazione l'ipotesi di un'insolvenza della Grecia o default su titoli di debito pubblico. Siamo fermamente convinti che il paese non andrà in default. La posizione del Consiglio direttivo è la seguente. Nei giorni passati siamo stati unanimi nel chiedere alla Grecia sforzi di risanamento supplementari. Siamo stati unanimi nel giudicare positivamente il programma e siamo stati unanimi nel riconoscere la necessità di attivare il meccanismo di aiuti dell'Unione Europea assieme al Fondo Monetario Internazionale. La decisione di allentare le regole sulle garanzie bancarie, permettendo alle banche di fornire titoli di Stato greci con qualsiasi rating, è stata presa a larghissima maggioranza. There was an overwhelming majority. Anche oggi Rain, e allora l'avete sentito Jean-Claude Trichet, vabbè, insomma, non è escluso un acquisto futuro, doveva servire a rasserenare anche la situazione greca. E sul Portogallo ha detto attenzione, basta guardare le cifre, ma mi sembra che qua le cifre oggi, l'altro ieri, non le stia guardando nessuno, è chiaramente un'ondata completamente diretta dall'estero, cioè non posso immaginare che qualcuno in Italia butti giù un credito dell'11%, Intesa dell'8,5%, Mediobanca dell'8,90%, il Banco Popolare del 7,20% senza notizie. Comunque, Trichet sul Portogallo. Greece and Portugal are not on the same boat and this is Grecia e Portogallo non sono sulla stessa barca. Questo è molto chiaro se si considerano i fatti e i numeri che sono assolutamente fondamentali. Il Portogallo è una delle altre 15 economie dell'area euro a cui abbiamo indirizzato i nostri messaggi. Ci aspettiamo che tutti i paesi affrontino i programmi di aggiustamento richiesti e necessari sul piano dei conti pubblici e che prendano le decisioni appropriate. Ma ripeto, il Portogallo non è la Grecia, è assolutamente ovvio se si guardano i dati. But again, Portugal is not Greece. That's absolutely obvious when you look at the figures. Vabbè, meno male che il Portogallo non è la Grecia. E neanche l'Italia è la Grecia, meno 5,3%, sta leggermente migliorando, mi fa quasi ridere dirlo, Piazza Affari, è arrivata a perdere fino al 6%. Allora, Carlo Cecchi De Rossi, amministratore delegato di Fitch Italia, una delle tre agenzie di rating, Moody's, Standard & Poor's e Fitch, sono le tre agenzie di rating che a livello mondiale danno i voti al debito dei vari paesi. Buonasera. Buonasera. Allora, dottor Marco Cecchi De Rossi, che cosa sta capitando? So che la domanda è un po' banale, ma insomma, questa mattina le borse erano quasi sulla parità, qualche tentativo di recupero, poi un po' di peggioramento. Moody's ha parlato questa mattina, devo dire, ho letto l'agenzia, no, ha detto c'è un rischio contagio in Portogallo, Spagna, Gran Bretagna, Italia, ma il sistema bancario italiano è solido, è meno esposto, c'è meno bolla immobiliare da voi, non avete comprato tanta robaccia e anche sulla Grecia siamo poco esposti. E allora cos'è questo, un attacco? Ma guardi, io non faccio commenti sulle intenzioni altrui, tantomeno sulle possibili ondate speculative. Io quello che posso dirle con tutta tranquillità sono due o tre cose. Uno, che il rating dell'Italia per noi è stabile dove era mesi fa, a doppia meno. Due, che non ci sono cambiamenti in vista sul rating delle banche italiane, neanche sulle maggiori banche europee, non ci sono cambiamenti in vista sul rating della Spagna, non ci sono cambiamenti in vista sul rating del Portogallo. E chi poi vuole andare sul mercato e fare le proprie scommesse si va, siamo in un, appunto, economia di mercato. Sì, adesso lei ha ragione, perché ognuno di voi lavora a suo modo, no? Per cui è giusto che risponda di quello che ha detto. Lei ci ha confermato che il voto delle banche sul debito delle banche italiane resta invariato, che il voto sull'Italia resta invariato, per cui per voi questo come si chiama? Panico? Speculazione? Non voglio dare nessuna definizione perché dico, non mi compete e francamente mi interessa anche poco. se dovessi preoccuparmi ogni giorno di quello che succede su un titolo, su un mercato, non è questo il mio mestiere, e quindi lascio a chi fa queste operazioni di prendersene responsabilità, vantaggi e svantaggi. Lei ha anche ragione, ma non è che ogni giorno Unicredit perde l'11,2%, Intesa l'8,5%, Mediobanca l'8,5%, Piazza Affari il 6%. Adesso, ah, non se è... si ricorda un anno fa, probabilmente noterà delle somiglianze. Sì. Comunque non ho altri commenti da fare. Va bene, una cosa ancora, vorrei capirla io. Secondo lei, per quello che riguarda Fitch, diciamo, ognuno risponde del suo, in questo momento il giudizio di un'agenzia di rating rischia di creare di amplificare la speculazione e i fenomeni di panico? Cioè, voglio dire, voi vi rendete conto come Fitch che ogni volta che aprite bocca, non, dico voi, vale benissimo per Moody's, a maggior ragione anche per Standard & Poor's, qui scatenate di tutto, perché questo, voi da sempre date i voti agli stati, ci mancherebbe il vostro lavoro. Sono circa 100 anni. Esatto, il vostro lavoro lo fate ogni mese e di solito non capita niente, a meno che non ci sia un declassamento di quelli brutti su un... società privata o su uno Stato, ma di solito, insomma, uno fate il vostro lavoro. In questo momento, evidentemente, la situazione è così in fibrillazione che qualunque spunto viene preso. Questo può portare a una maggiore responsabilizzazione quando parlate come agenzie di rating, secondo lei? Guardi, noi abbiamo la stessa responsabilità in qualsiasi condizione di mercato. Ovviamente viviamo nel mondo e ci rendiamo conto di quando ci sono periodi più volatili. Ma questo non cambia il nostro metodo di lavoro, sia per quanto riguarda appunto la determinazione dei rating, sia per quanto riguarda la comunicazione dei rating, che viene fatta secondo regole precise, scritte e pubblicamente ottenibili. Grazie a Marco Cecchi De Rossi, amministratore delegato di Fitch Italia, una delle tre agenzie appunto che danno i voti ai paesi. Importante quello che ha appena ribadito, che secondo Fitch il voto sulle banche italiane non cambia, il voto sul debito italiano non cambia. Allora, vedo molti messaggi, alcuni, devo dire, invidio l'ottimismo, anche se si scende con violenza, poi si risalirà sempre con più forza. Bisogna comprare ora, sì. Prego. Vabbè, sentiamo Gio Tremonti, ministro dell'economia, intervenuto nel pomeriggio quando, insomma, già la borsa non era messa bene, perdeva il 2,5-3%, adesso ha perso anche di più, però... ha parlato di Grecia soprattutto, lo ha fatto il ministro Tremonti praticamente alla Camera come informativo urgente sulla situazione della crisi greca. Ha detto tra l'altro che la determinazione di Atene è eccezionale, che c'è stato comunque un ritardo nella reazione europea, che comunque il programma di Atene è adeguato. La situazione è molto seria e quanto successo era prevedibile. Ci sono in Grecia squilibri finanziari accumulati nel tempo per colpevole convenienza. E comunque ha ricordato, insomma, la quota anche dell'Italia nell'intervento verso la Grecia. La nostra quota nel pacchetto di sostegno è il 18,4% del totale europeo, corrispondente alla nostra quota di partecipazione nel capitale della Banca Centrale Europea, ed è pari inizialmente a 5,5 miliardi. Il decreto legge che sarà approvato domani dal Consiglio dei Ministri ci consente di intervenire in modo flessibile con emissioni a medio-lungo termine e anticipazioni di tesoreria. Trattandosi di un prestito, l'intervento non avrà effetti sul deficit, ma sul debito, di cui però si terrà conto nettizzandolo nel quadro del patto di stabilità. Allora, un'altra notizia, la sto leggendo insieme a voi: aumenta la differenza, lo spread tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, va a un livello record, 143 punti, quindi la differenza tra quanto rende un'obbligazione tedesca e quanto la rende un'obbligazione italiana è all'1,43%, è altino il livello quasi spagnolo. Adesso andiamo a verificare anche quello che però è successo in Spagna. La Spagna ha dovuto pagare, come dicevo oggi, un rendimento più alto per collocare le sue obbligazioni. il 3,53% di rendimento medio. Allora, un'analisi di Giulio Tremonti. La crisi è passata dai debiti privati ai debiti pubblici. È un tema su cui spesso il Ministro dell'Economia torna, cioè gli stati hanno incorporato i debiti creati dal settore privato, nel caso specifico le banche, il deficit della Gran Bretagna, ma anche quello americano, e altri deficit sono frutto soprattutto di salvataggi delle banche, poi nel caso nostro invece di un rallentamento, di una frenata dell'economia. Noi le banche le abbiamo aiutate meno, obiettivamente. Vabbè, sentiamo Tremonti sulla crisi che è passata dai debiti privati a quelli pubblici e, a questo punto quasi predittivo, ha detto un'ora fa esatta: nessuno è immune dai rischi in quanto passeggero con biglietto di prima classe. Finora, per descrivere l'evoluzione della crisi, ho usato l'immagine del videogame. Arriva un mostro, lo affronti e mentre ti rilassi arriva un altro mostro più grande del primo. Userò qui un'altra immagine. Al termine del suo libro sulla Seconda Guerra Mondiale, Churchill si chiede se quella su cui scrive è davvero stata la Seconda Guerra Mondiale o invece il seguito di un'unica guerra solo intervallata da un lungo armistizio. Non è questa una seconda crisi che è arrivata, è solo la stessa crisi che è continuata e si è trasformata passando dai debiti privati ai debiti pubblici e così scalandosi su scala globale. Le colpe passate e i doveri attuali non sono certo uguali da banca a banca e da Stato a Stato e in particolare i doveri degli Stati in crisi sono e devono restare assoluti. Ma ormai la responsabilità è di tutti. Rimossi ex ante i confini economici, non si possono più far valere ex post i confini politici. Nessuno è immune dai rischi perché è passeggero con biglietto di prima classe. L'estensione della crisi è sistemica e la soluzione può essere solo comune e politica. La sovrastruttura politica deve allinearsi alla struttura economica e la semplice somma algebrica, totale o parziale, dei governi nazionali, più o meno forti, non può fare da sola quel nuovo tipo di politica che il tempo presente richiede. Il tempo è strategico e dobbiamo guardare non solo al domani o al mese prossimo, ma al prossimo decennio, per assorbire la crisi e per organizzare il futuro. Il nostro futuro non è un destino, ma una scelta. Così Giulio Tremonti. Allora, per descrivervi quello che sta capitando sulla borsa oggi, 4 minuti fa Unicredit perdeva il 12%, adesso perde il 7,5%, cioè 5 punti percentuali in 4 minuti. Intesa, anche lei perdeva il 10%, adesso perde il 7%, bene, meglio. Mediobanca perdeva il 10%, in 4 minuti adesso perde l'8%, la borsa perdeva il 6%, complessivamente adesso perde il 4,3%, insomma chiude non sui minimi, certo che fare buon viso a cattivo gioco con un meno 4,3%. E tutto perché, allora vediamo di capire, non ci sono stati declassamenti, abbassamenti di voto, non ci sono state notizie di allarme sul profit warning, come si chiama, cioè utili in calo. Non ci sono state notizie, mi riferisco sempre ai grandi gruppi bancari italiani, di aumento di capitale. Non c'è stato niente di niente se non un'agenzia di rating che si chiama Moody's e che ha detto oggi attenzione, c'è un rischio contagio per le banche europee. Ora io dico, prima sentivamo Fitch, ma un po' di senso di responsabilità con questo, in questo periodo, con questo nervosismo, dire una frase del genere è come dire a uno che ha un male al petto, ma lei forse sta rischiando l'infarto. Forse però, eh. E allora, cara Moody's, con tutto il bene che ti vogliamo, beccati il nostro gufo per quello che può valere. Vabbè, vabbè, va bene. Andiamo in meteo, pubblicità e poi il resto della giornata, gli altri titoli, i commenti, la borsa, l'attacco alle banche italiane, l'attacco all'Italia come paese in generale. 349-238-6666 per i vostri sms. 17:41 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, in una giornata nerissima per la borsa italiana, e questo a noi preoccupa molto, lo dico agli ascoltatori. È la peggiore Milano oggi di tutte le borse, anche di Madrid. Questo è inspiegabile obiettivamente. È arrivata a perdere il 6% Milano verso le 17:20, con Intesa che perdeva il 10% e Unicredito che perdeva il 12%. Poi, come fanno a notare alcuni ascoltatori, hanno riguadagnato un 5% Unicredito e Intesa, adesso hanno chiuso con un meno 7,40 Unicredito, meno 7,70 Intesa, c'è qualcuno che nell'arco di 3 minuti ha guadagnato il 5%. Se lo moltiplicate in quello che è il rendimento nell'arco di un giorno, fa spavento. Così come scrive un ascoltatore, non so se ridendo, ma volevo ritrovarlo, insomma, lui oggi ha venduto allo scoperto, cioè senza avere i titoli in mano, semplicemente giocando su un ribasso dei titoli, e quindi ha guadagnato tranquillamente tantissimo. Alcuni scrivono più 5% in 4 minuti Unicredito e Banca Intesa, chissà se in Moody's qualcuno ha comprato. Allora, no, non esiste nessun elemento per dire che vi sia un conflitto di interesse tra le agenzie di rating e, diciamo, la speculazione. Il conflitto può essere tra l'agenzia di rating, per quello che abbiamo visto in questi anni, e il soggetto che va a vigilare, nel senso che nel caso di Parmalat, per esempio, si disse, insomma, se siccome era Parmalat che pagava i voti, l'agenzia di rating, diciamo, ti dà il voto se tu paghi la commissione, delle volte poteva esserci un conflitto di interessi nel dire, insomma, se è un cliente molto importante, forse chiudi un occhio. Ma qui non è un problema di clienti, è un problema di dichiarazioni, a mio avviso, così scriteriate, perché che senso ha dire, lo scrivono anche molti ascoltatori, come ha detto Moody's questa mattina, c'è un rischio contagio anche alle altre banche europee, e che non lo sapevamo del rischio contagio, è una settimana che andiamo avanti a parlarne. Comunque, dai, la borsa. La borsa di nuovo Andrea Fontana. Andrea, abbiamo aperto con te perché un po' è migliorato, da un meno 6% l'indice ha chiuso con un meno 4,30, appunto Intesa e Unicredito che perdevano il 12% l'ho perso solo tra virgolette, il 7,70 Intesa e il 7,40 Unicredito. Mediobanca ha perso l'8%, Ubibanca il 6,80, Monte dei Paschi il 6,60, il Banco Popolare il 6,30, la Popolare di Milano 6,20 di calo, Unipol il 5,30, Fondiaria il 5,30, Generali 5,30, male anche in pregilo meno 5, e poi Telecom meno 6,20, Eni meno 3,40, A2A meno 3,20, Mediolanum meno 3, Buzzunice meno 2,80, come Exor il 2,60 e Enel, il calo di Enel il 2% Saipem. Qualcuno ha continuato a guadagnare, Pirelli dopo lo spin-off dalla Pirelli Real Estate più 1,2, Bulgari più 0,6. Il peggior titolo oggi, Société Générale a Milano meno 10, Pirelli Real Estate meno 9,20 e poi AF meno 13, Kersef meno 10. Il miglior titolo Green Vision più 2,7, Munich Re più 2,4, in pregiro sul risparmio non convertibili più 6,3%. Allora, qualche idea in più su quello che è successo in quella mezz'ora di panico? Dalle 5 meno un quarto alle 5:20 si è arrivati a perdere 7-8 punti percentuali sui titoli bancari in una botta sola per poi recuperarne 4-5? Gli analisti con cui abbiamo parlato, insomma, nelle ultime fasi di quotazione della borsa hanno confermato, insomma, questo timore, questa preoccupazione forte sull'economia italiana, certamente innescato questa mattina da Moody's, diciamo così, una Moody's ambivalente, come tu forse ma ambivalente del che, Andrea? È una follia, non ce l'ho con te, ma parlare con i mercati aperti dicendo che c'è il rischio di contagio senza specificare chi, cosa, dove, come, quando, quali titoli, quali banche, perché, e allora facciamo prima andare al bar. Vai avanti, scusami. No, certamente, dicevo, sull'incertezza, nello stesso tempo in cui si va a esprimere l'incertezza per il rischio contagio, estesa anche all'Italia, nello stesso tempo in cui si parla di banche italiane tutto sommato posizionate meglio, che sono uscite meglio dalla crisi, in questo senso appunto la bivalenza. Comunque, tornando alle riflessioni che analisti e operatori facevano sul finale, appunto questo timore che tra l'altro non è stato neppure frenato sui listini, diciamo, dalle mosse, dalle dichiarazioni della BCE. Qualche analista diceva la disponibilità della BCE di riacquistare bond governativi, come fatto ad esempio per la Grecia, avrebbe potuto forse calmare diciamo le speculazioni al ribasso e soprattutto i timori, le preoccupazioni sull'Italia che si sono riflessi nei listini. Oggi la BCE ha detto ma stiamo valutando, ma non è ancora stata presa una discussione, una decisione, e questo ha eventualmente alimentato il ribasso e la speculazione, che poi sul finale si è leggermente rientrata, ma certamente Milano ha fatto storia a sé rispetto che a me preoccupa non è il calo in sé di Milano, perché è pesante, meno 4,30 è pesantissimo, se arrivate a meno 6. Abbiamo visto però i momenti di grande tensione a ottobre, novembre del 2008, cali anche più forti. La cosa che mi preoccupa molto è che noi siamo la borsa peggiore di tutte le borse europee oggi. Grecia più 1%, Madrid meno 3, Portogallo meno 2, Milano meno 4,5. Allora, a me sembra chiaro che questa è una manovra concertata, poi ne parleremo con gli altri ospiti, da diversi soggetti. Proprio ieri abbiamo cercato di capire i volti della speculazione, non ci siamo riusciti, ma vabbè, è una manovra concentrica contro l'Italia. Insomma, se la Grecia fa più uno perché e la Spagna fa meno tre e noi facciamo meno 4,5, vuol dire, è chiaro che l'ondata di vendite si è scatenata per motivi che ancora non riesco a capire sulle banche italiane. Parigi alla fine ha perso il 2,2, Francoforte ha perso lo 0,80, Londra ha perso l'1,1, non il 4,5, quasi e oltre il 6% in alcuni momenti. La Consob dov'è? Boh, non lo so nemmeno io, avete ragione. Immagino che solertemente il presidente Cardia andrà a controllare chi ha guadagnato con questi movimenti, chi ha guadagnato il 5% in 4 minuti sui titoli bancari e via discorrendo. Alcuni di voi scrivono, ma insomma non vi rendete conto che c'è un attacco che arriva dalla Gran Bretagna, non lo sappiamo. Comunque, traffico e poi di nuovo in diretta. Allora, di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Chiedo a un ascoltatore di smettere di mandare lo stesso messaggio decine di volte per rispetto anche agli altri ascoltatori. Abbiamo capito che se anche si scende con violenza, secondo lei poi si risalirà sempre con più forza, e che lei dice di comprare ora. Noi però vorremmo anche lasciare spazio agli altri ascoltatori. Allora, alcuni dicono ma Milano ha perso di più perché ha più titoli bancari. Sì, è verissimo che l'indice italiano ha più titoli bancari, ma veramente le differenze rispetto al resto d'Europa sono macroscopiche. Andrea Fontana, ma le banche in Europa come sono andate? No, beh, certamente le performance di Milano non sono equiparabili, soprattutto nelle principali banche. Se vediamo a Parigi, BNP Paribas ha perso 2,5, Agricola ha perso il 3,7, quindi performance certamente negative. Ecco, Société Générale effettivamente ha perso 7, ma diciamo non le performance non sono agli stessi livelli di quelle sì, dico italiane. Madrid ha perso il 2,90 ed è Madrid, dovrebbe essere, capito, in questo momento l'oggetto della speculazione. Noi abbiamo perso il doppio quasi, per cui vabbè. Parigi ha perso il 2,2, per carità, nessuno dice che sia una bella cosa. Ancora vedo da questo punto di vista altri messaggi che arrivano. Londra ha perso l'1,5, ma noi abbiamo fatto peggio di tutti gli altri. Facciamo una cosa, Andrea Fontana. Pirelli ancora sulla scissione del real estate, guadagna molto male però Pirelli Re oggi, meno 9,19. Sì, beh, bisogna dire che insomma il fatto che il mercato abbia promosso Pirelli, insomma, è una cosa che vediamo già da due o tre giorni, lo scorporo. Certamente per quanto riguarda invece l'immobiliare c'è anche una maggiore diciamo così incertezza su quello che sarà appunto il futuro dell'attività immobiliare, che sarà appunto slegata da Pirelli. Certamente oggi il settore immobiliare non è non si è mosso positivamente anche nel resto d'Europa. Insomma, il riassetto azionario di Pirelli Re poi non prevede allo stato attuale nessun lancio di OPA e nessun riassetto con un nuovo socio forte, quindi diciamo così, nonostante le rassicurazioni dell'entrata delle banche nel nuovo patto di sindacato, quindi Unicredit, Mediobanca, Intesa, questo non basta in una giornata come oggi a tenere alto Pirelli Re, mentre Pirelli, pur riducendo i guadagni, si è mostrata ancora la migliore, segno che questa operazione certamente libererà spazio per l'impresa, per il titolo. Grazie Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore. Adesso respiriamo per qualche minuto, si fa per dire, poi torneremo a parlare di questa. Molti di voi scrivono: non è che questo sia un test per l'Italia? Temo di sì, cioè, da come si è mosso il mercato in maniera così brusca, ripeto, fino alle 3:30 la borsa perdeva come le altre, -2, -2.5, più o meno come le altre borse europee, poi improvvisamente il crollo fino al -6% con un disastro sui titoli bancari, concentrico, rapidissimo, con volumi fortissimi. Ecco, Milano è scesa ai minimi dall'estate del 2009, che può voler dire tutto e niente. Il problema è come scendi, non è solo quanto scendi. E devo dire, è sembrato un test per dire: vediamo come reagisce l'Italia se è attaccata sulle banche. Respiriamo, si fa per dire, per un attimo, perché oggi è iniziato un processo molto importante. Restiamo in tema di finanza creativa, finanza tossica, finanza deviata oltre che derivata. Eh sì, processo penale che coinvolge Deutsche Bank, JP Morgan, UBS e DEPFA Bank per i supposti raggiri nei confronti del Comune di Milano, il modo in cui queste banche negli anni d'oro, parliamo del 2005 in questo caso, vendevano ai comuni, e Milano è uno dei tanti casi, i prodotti derivati, spiegando a gente che da sempre li maneggia, come gli assessori, che erano prodotti affidabili, che si spalmava il rischio, che si poteva guadagnare, che in questo modo ti ricoprivi da altri rischi, che era una specie di assicurazione futura. Raffaella Calandra ha seguito, ed è a Palazzo di Giustizia per noi, il processo. Raffaella, abbiamo 30 secondi per raccontare di che si è parlato, poi le voci le sentiamo dopo il GR. Raffaella. Oggi è stata un'udienza solo di smistamento, perché nel processo si entrerà nel vivo il prossimo 19 maggio con nuovo giudice, ma già nell'aula di oggi, affollatissima di parti e di tanta stampa anche straniera, questo processo pilota è stato evidente qual è la domanda di questo processo pilota, ossia: ci sono degli estremi penali dietro quei contratti derivati? Insomma, ci fu davvero una truffa aggravata ai danni del Comune di Milano, che sarebbe stato danneggiato, secondo le ricostruzioni dell'accusa, avrebbe subito un danno da 101 milioni per un'operazione in derivati su un bond da 1.685 milioni. Questa la domanda a cui il processo dovrà dare una risposta. Allora, vedo che alcuni scrivono: magari sono gli italiani che speculano sugli italiani stessi, ma non mi convince, il movimento è stato troppo brusco, mi riferisco alla borsa di oggi, per essere frutto solo di movimento italiano. Comunque, Raffaella, dopo il GR vediamo anche cosa ha dichiarato l'avvocato del Comune di Milano, che è parte civile, si sente raggirato, e anche il PM, perché insomma è giusto capire anche il ruolo di queste banche. Il GR e poi il processo per i derivati del Comune di Milano, e poi di nuovo cerchiamo di capire chi e sulla base di quali presupposti abbia attaccato oggi l'Italia. 349-238-6666 per i vostri SMS. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Torneremo a commentare tra poco il giovedì nero, nerissimo di Milano. Molti di voi scrivono: è un attacco all'Italia, è un attacco alla borsa italiana, è un test per vedere come reagisce il mercato italiano. Dalle informazioni che stiamo raccogliendo, ne parleremo tra un attimo, non è forse andata esattamente così. Questo già sarebbe un qualcosa di positivo, fermo restando che i grandi gruppi bancari italiani sono arrivati a perdere il 12% poco prima della chiusura, poi hanno recuperato un 5%, hanno chiuso con un -7%, Intesa, Unicredito, -7.5%, Monte dei Paschi, Mediobanca, -8%, e via così. Fermo restando che tutte le altre borse europee hanno perso, ma non così tanto. Madrid ha anche guadagnato, ma ripeto, a me quello che impressiona è vedere Francoforte che perde solo lo 0.8%, Londra che perde solo l'1.5%, Parigi che perde il 2.2%, Perfino il Portogallo ha perso il 2,4, cioè la metà di noi, e anche la Spagna ha perso quasi la metà di noi, meno 2,9, noi meno 4, adesso vediamo l'indice corretto in chiusura, meno 4,27%, per cui... E adesso ne parliamo, molti di voi dicono che bisognerebbe bloccare le vendite allo scoperto, e lo so, fu fatto durante il periodo peggiore della crisi. Vorrei concludere però con Raffaella Calandra, che, come ricordavamo, ha seguito questa mattina la prima udienza del processo penale che coinvolge Deutsche Bank, JP Morgan, UBS e Depfa Bank per i supposti raggiri nei confronti del Comune di Milano per avergli venduto i derivati nel 2005 degli swap, contestualmente all'emissione di un'obbligazione da 1,7 miliardi, che questi swap venduti da queste banche garantirono, secondo l'accusa, alle banche 100 milioni di euro a queste banche di profitti illeciti. Le banche infatti assicurarono a Palazzo Marino e al Comune di Milano che i derivati erano economicamente vantaggiosi, mentre in realtà non lo erano affatto. Raffaella. E infatti ora contro le quattro banche e contro i 13 imputati, che sono manager appunto degli istituti bancari o funzionari o ex funzionari comunali, Palazzo Marino ha chiesto questa mattina di costituirsi parte civile, ma attraverso l'avvocato Carlo Federico Grosso ha anche chiesto la citazione come responsabile civile, quindi in vista di futuri risarcimenti proprio dei quattro istituti bancari che hai nominato. In questa udienza di questa mattina il procuratore invece Alfredo Robledo, che rappresenta l'accusa, ha invocato più regole e anche più tutele degli enti locali, anche di fronte allo stato di quello, allo spettro di quello che sta succedendo in Grecia, perché questo processo è un processo pilota anche rispetto agli altri tribunali italiani ed è molto seguito anche da altre testate anche giornalistiche, seguito anche europee. Allora sentiamo cosa ci ha detto il procuratore Robledo. Gli effetti che potrebbe avere sono effetti che si riverberanno su una larghissima parte di contratti simili stipulati da banche straniere con enti pubblici territoriali. Almeno si getta una luce, ecco, su una modalità operativa in maniera più approfondita, in modo tale da rendere certi comportamenti visibili, comportamenti che sinora sono rimasti, diciamo che non sono emersi, ecco, o sono stati indicati con formule poco comprensibili, tipo costi impliciti, che in sé per sé non significa nulla. Potrebbe cambiare in qualche modo anche i rapporti tra enti locali e istituti bancari? Io me lo auguro, cioè in Inghilterra, come sapete, non c'è possibilità da parte degli enti locali ormai di stipulare questi derivati. Gli enti locali in Italia, che io sappia, per la grandissima parte non sono mai stati assistiti da tecnici finanziari. Altra cosa è l'assistenza di grandi istituti internazionali che coprono il profilo giuridico. Questo secondo me sarebbe, nel caso il legislatore consentisse ulteriormente agli enti territoriali di compiere operazioni in derivati, ma che almeno si pretendesse un'assistenza tecnica che fino adesso non hanno avuto, e quello è il lato oscuro di queste vicende. Bisogna stare attenti a non invadere campi che non possono essere invasi perché attengono alla libertà di mercato, ma sicuramente una tutela maggiore dalla controparte, la quale non è così sofisticata, ecco, come invece sono le banche proponenti. Le banche che, come è noto, hanno rinunciato al ricorso e hanno versato la cifra di oltre 100 milioni di euro che viene contestata come guadagno illecito, se anche il tribunale dovesse dar ragione, certamente vi sarebbero conseguenze sugli altri contratti, perché sono fatti per larghissima parte in questo modo, soggetti alle regole del diritto inglese, che qui si è rivelata, secondo la prospettazione accusatoria, naturalmente un momento oscuro di questa contrattazione. Quindi non il contratto in sé derivato sotto accusa, ma le modalità e la veste e anche del cliente ente locale. Il contratto derivato è uno degli strumenti finanziari che appartiene all'epoca moderna, il suo pericolo è l'effetto leva, che è spaventoso, va controllato. L'assenza della politica si vede qui, cioè non c'è nessuna regolamentazione, e il derivato è un prodotto finanziario che può essere utilissimo o, se mal usato, come nel caso della Grecia, sotto gli occhi di tutti, dannosissimo. Raffaella Calandra, grazie. È importante quello che diceva Robledo, insomma, qui c'è una disparità di trattamento tra la banca che ti vende un prodotto e ti spiega che è assolutamente poco rischioso, queste banche d'affari, e la capacità o incapacità dei comuni, non hanno le risorse interne per valutare se è vero quello che dice chi te lo vende. Un po' come se uno ti proponesse diciamo così, una macchina e fosse lo stesso venditore a elogiarti tutti i vantaggi della macchina. Grazie Raffaella Calandra. Come tu ricordavi, oggi è stata la prima giornata, quella, diciamo, di smistamento. Noi adesso torniamo a occuparci di borse per quello che riguarda la giornata. Attacco all'Italia, vedo molte agenzie, attacco all'Italia. Beh, cerchiamo di capire adesso se è stato così, soprattutto perché diciamo, la parte del panico più forte si è avuta tra le 16.45 e le 17.15. Piazza Affari dal 3 è arrivata a perdere il 6%, i titoli bancari dal 3, 4, 5% sono arrivati a perdere il 12%. Allora ringrazio gli ospiti che ci hanno raggiunto in collegamento, chiedo estrema sintesi, grazie quindi a Walter Riolfi del Sole 24 Ore. Walter, buonasera. Buonasera. Grazie anche al professor Marco Nado che anche lui ci ha raggiunto in collegamento. Buonasera professore. Buonasera. Per lei chiaramente non una domanda tecnica, ma insomma che cerca di capire se è un attacco concentrico. E grazie anche a Carlo Gentili, mi sono legato di Next and Partners. Buonasera anche a lei Gentili. Ecco, qualche problema di collegamento. Allora, Walter Riolfi, in questi primi due minuti, poi c'è il traffico, che cosa è successo dal punto di vista dei grafici che tu hai sotto mano? Allora, forse, forse è improprio parlare di un attacco all'Italia, perché non mi pare, guardando gli spread, cioè i differenziali di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, che l'Italia abbia subito un attacco peggiore di quello che hanno subito Spagna, Portogallo, Irlanda, eccetera. Gli spread oggi si sono allargati per tutti e diciamo che per gli altri paesi d'Italia si sono allargati di un buon 25 centesimi, che non è poco, anzi è uno delle espansioni più rapide in una giornata che si siano mai viste, però per gli altri si sono allargate ancora. Cioè la differenza tra quanto rendono obbligazioni tedesche e quella italiana è aumentata moltissimo, anche se resta sotto quella di Spagna e Portogallo, però... Questo va a misurare il rischio paese, più rendono le tue obbligazioni più a rischio sei. Il rischio paese, però anche qui bisognerebbe fare una precisazione, non è che abbiano perso i titoli italiani, cioè i titoli italiani tutto sommato sono rimasti fermi allo stesso prezzo, allo stesso più o meno rendimento, forse oggi sono saliti un po', ma più o meno quello che avevamo al primo di gennaio, alla fine dell'anno scorso. Quelli che invece i rendimenti dove sono scesi fortissimo sono i rendimenti dei titoli tedeschi, sono scesi di 61 centesimi. E questo traducendo cosa vuol dire, Walter? E di almeno e oltre 50 centesimi quelli americani. Vuol dire che comunque ci sono delle pressioni di vendita, ma non così forte sui titoli, per esempio italiani, ma forse anche quelli spagnoli, eccetera. Ma c'è una concentrazione di flussi di liquidità verso la Germania, i titoli di Stato tedeschi e i titoli di Stato americani, considerati più sicuri, a ragione o a torto. Sì, questa però non è una bella notizia, perché ieri ridevamo, commentavamo con sarcasmo i 20 miliardi di euro che dalla Grecia sono già volati all'estero e i miliardari greci che si comprano casa a Londra. Ecco, non è bello vedere che la liquidità vola verso la Germania a danno anche dell'Italia. Vorrei poi sentire... quello che è successo oggi, dopo magari ne parliamo, perché è una cosa particolare. Anche tecnica. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente il traffico, chiedo estrema sintesi al traffico, per favore, e poi Carlo Gentili e Marco Nado. Di nuovo in diretta, allora, dottor Carlo Gentili, lei che cosa ha visto sul mercato oggi? Pronto? Ma, sì, grazie. Prego. Ma diciamo le agenzie di rating sono abbastanza caratterizzate da un inconsistenza nella lucidità e tempismo dei messaggi, quindi visto come si sono espresse nei confronti dell'Italia, un po' provocatoriamente mi verrebbe da dire che forse è il caso di fare esattamente l'opposto, cioè di comprarsi l'Italia a questi livelli. Al di là della provocazione, certamente la situazione italiana, ma lo diciamo da tempo, da sempre, è una situazione fragile, che non ha nulla a che vedere con la Grecia, ma certamente fragile. Sarebbe opportuno, o sarebbe stato opportuno, cogliere l'occasione di questo attacco speculativo iniziato verso la Grecia e verso la Spagna da parte delle nostre autorità per annunciare riforme che ahimè mancano da anni nel nostro paese, perché questo è quello che il mercato vuol sentirsi dire. Nel momento in cui il mercato non vede proporre piani di intervento, penso alla riforma delle pensioni, penso tutto ciò che serve a contenere e a ridurre il deficit, questo ovviamente apre il varco alla speculazione. La lentezza della politica è l'elemento, diciamo, su cui il mercato prospera. C'è stata comunque anche, Gentile, molta speculazione, perché ripeto, Intesa e Unicredito perdevano alle 17.15 il 12%, hanno chiuso con un meno 7, cioè recuperare 5 punti percentuali in 10 minuti, no? Se non è speculazione, sì, questa. È speculazione, non c'è dubbio, c'è un forte, diciamo, effetto panico e la speculazione, cioè, è scritto che se non vedi una risposta politica alle incertezze di questi giorni, è chiaro che si apre un varco. Il mercato ha tempi diversi rispetto a quelli della politica, era abbastanza, diciamo, facile scommettere, diciamo, su un ritardo o sull'incertezza. Allora, voglio dire, al di là della necessità di fare la riforma delle pensioni, forse il governo potrebbe anche pensare a questo, al di là dell'opposizione netta della Lega, ma insomma non si capisce perché non tornare allo scalone Maroni, 7 miliardi di risparmio, più volte l'abbiamo detto. Professor Onado, lei è stato anche commissario Consob. Allora, si attende che domani la Consob farà chiarezza, non è possibile vedere questa cosa che sembra una specie di roulette. B, ritiene che ci sia un attacco speculativo all'Italia, cioè che qui ci sia un qualcosa di concertato. C, le chiederei estrema sintesi, che giudizio dà sulle agenzie di rating? Oggi Moody's ha iniziato stamattina dicendo c'è un rischio contagio per le banche europee, non ce ne eravamo accorti. Portogallo, Spagna, Regno Unito e Italia. Poi ha precisato, le banche italiane sono robuste ma non immuni. Anche questo mi sembra un'ovvietà. Prego, professore. Comincerei da C, perché mi sembra l'aspetto, la terza domanda che va fatto, il punto cruciale di oggi. Appunto, io non ho visto questo studio di Moody's che è uscito oggi, come credo nessuno peraltro, però quello che riportano le agenzie è che l'agenzia di rating ha detto che esiste un pericolo contagio in Spagna, Portogallo, Irlanda e Gran Bretagna. In Italia gli istituti sono robusti ma a rischio. La notizia giornalisticamente è che ci sono quattro sistemi bancari, fra cui quello del inglese, che è molto grande e molto importante, che sono considerati in prima linea. L'Italia è robusta ma a rischio, ma è una frase degna di Messie della Parissa, perché è ovvio che se entrano in difficoltà Spagna, Portogallo, Irlanda e Gran Bretagna, non ci sono spalle abbastanza larghe per sopportare una crisi di questo genere, insomma. Quindi la notizia avrebbe, per quanto riguarda l'Italia, avrebbe dovuto essere letta in termini positivi. Sì, e anche infatti secondo me la Banca d'Italia ha reagito molto duramente. Insomma. E allora le altre due domande, cioè la Consob può fare qualcosa domani e secondo lei è in atto un attacco? Abbiamo un paio di minuti per la risposta, grazie. Che sia in atto un attacco è provato dai numeri. Che la Consob possa fare qualche cosa su operazioni che saranno sicuramente sparpagliate sui mercati di 20 paesi e molto spesso, per esempio, sui CDS, su mercati che non sono regolamentati, lo escludo. Il problema fondamentale, a proposito di regole, è che stiamo continuando a parlare di mettere un freno all'attività speculativa delle banche e siamo ancora lì allo stadio di 18 mesi. E ben gli sta anche l'Europa, che non è stata capace di fare una regola in due anni. Anche le banche italiane avranno venduto, ci mancherebbe. Bloccare vendita allo scoperto, leggo alcuni messaggi, sarebbe una soluzione. Il rapporto di Moody's, alcuni scrivono questa è turbativa di mercato, non lo so, perché questo rapporto, da quello che sappiamo noi, era uscito 2-3 settimane fa, gli analisti, gli operatori lo conoscevano già, oggi è stato diffuso ufficialmente. A me sta cosa qui mi puzza un po', perché 3 settimane per far uscire un rapporto, no? Voglio dire, quanti lo conoscevano, quanti hanno diffuso la voce, quanti ci hanno guadagnato, vabbè. Walter Riolfi, un tema delicatissimo questo dell'agenzia di rating, non si può andare avanti che ogni volta che parla Moody's sul rapporto di 3 settimane fa crolla tutto. Comunque Moody's hanno imposto, non importa. Walter, motivi tecnici scattati anche nelle sale operative quando tutto inizia ad andare giù? Allora, forse non si tratta di un attacco nel vero senso della parola. Allora, una premessa: le banche italiane sono al mondo quelle che detengono più titoli di Stato del proprio paese rispetto a tutte BTP, le altre. Perfetto. Qui la Grecia non c'entra, diciamo che c'entra indirettamente, ma non c'entra, non sono i titoli greci che creano il problema, sono i titoli di Stato italiani, no? E non solo le banche, ma anche altre assicurazioni, Allianz per esempio. Allora, cosa può essere successo? Che oggi, perdendo qualcosina i titoli di Stato italiani, parecchio in termini relativi, però qualcosina in termini assoluti, siano scattate delle protezioni, cosiddette basket, no? Quelli fabbricati dalle solite banche d'affari, Goldman Sachs, Morgan Stanley. In automatico c'è stato un ordine di vendita. Sono stati, e quindi questi creano le creano delle vendite, ma in realtà è frutto di gente che ha chiesto protezione, tra cui molto probabilmente gli stessi istituti italiani che sono scesi fino al 12%. Sì, sicuramente, non voglio mettere in dubbio questo, secondo me purtroppo temo ci sia anche dell'altro. Comunque facciamo una cosa, la puntata oggi è stata quanto mai intensa, ed è finita. Io ringrazio Carlo Gentili, Marco Nado e anche te Walter, perché domani ci risentiremo, lunedì ci risentiremo, ormai sta diventando una rubrica fissa. Grazie anche a Walter Riolfi. È tutto per questa puntata di Focus Economia. Meno 4,27 Milano, meno 8% Mediobanca, meno 7,70 Intesa, meno 7,40 Unicredit, meno 6,80 Bibanca, meno 6,60 Monte dei Paschi. Domani condurrà Focus Economia Simone Spezia, io sono in vacanza col gufo, comunque buon fine settimana a tutti voi in ascolto. Radio 24, la passione si sente.